Trasmettiamo Proxy Bar. Proxy Bar. Proxy Bar. L'after hour sulle applicazioni e sui contenuti della rete che migliorano la qualità della vita. In studio Antonio Pavolini e Daniela Apollonio. Solo su Radio Imago. Buonasera a tutti da Antonio Pavolini, benvenuti alla terza puntata di Proxy Bar. Buonasera Daniela, sì, Antonio, Apollonio. Siamo già alla terza puntata, sembra ieri che abbiamo iniziato, invece guarda dove siamo. Possiamo dire di avere un'esperienza radiofonica? No. Assolutamente no. Senti, ti ricordi giovedì scorso quando hai detto che gli ebook erano un grande flop, un grande fallimento, con questa frase un po' tranchant? Bene, oggi ti sistemo per le feste, perché abbiamo tra gli ospiti di oggi un signore che si chiama Antonio Tombolini e che ci parlerà degli ebook di seconda generazione. Vedrai che ti farà cambiare idea. Non vedo l'ora di ascoltare questa novità, perché io continuo a diffidare e ne parlerò con lui volentieri. Va bene, abbiamo anche gli scettici in studio, giustamente, no? Servono anche loro. E poi avremo chiaramente le chicche, per poi parlare anche di iPhone, di questo nuovo strumento mirabolante ma già molto discusso. Ne parleremo con il nostro guru di turno. Abbiamo un bel po' di cose di cui parlare, quindi io direi di cominciare. Molto volentieri. Sul mercato i primi apparecchi di lettura sviluppati sulla tecnologia e-ink, inchiostro elettronico. Non vi sto a far la storia, nel sito della e-ink.com trovate tutti i dettagli. Per farla molto breve, il concetto è quello di una stampa vera e propria. Si è ribaltata l'ottica, non l'LCD da ottimizzare il più possibile eccetera eccetera, ma trovare l'equivalente elettronico della stampa su carta. Questo equivalente elettronico consiste di una sostanza brevettata da E-Ink, ne stanno sviluppando altri competitor, sono delle microcapsule che, eccitate elettricamente, scendono e salgono tra due strati, tra due film che sono lo schermo. La particella che sale di più fa il nero, quella che rimane a terra resta bianco, quella che va in mezzo fa il grigio, banalizzando molto. L'effetto poi lo vedrete, li lascio qui sopra, eccetera. È una pagina in bianco e nero, con toni di grigio, chi 4, chi 16, a seconda della risoluzione, che ha una risoluzione molto più elevata degli standard a cui siamo abituati con i computer, con i monitor tradizionali, che ha una leggibilità assoluta anche in esterno, un angolo di lettura come quello della carta, che se è notte non si vede, appunto perché è spento e quindi ci vuole la lampadina, l'abajur o quello che vi pare, ma che se stai in spiaggia al 16 di agosto come me, con questo che è arrivato il 16 di agosto, e stai in spiaggia, te lo porti, leggi piacevolmente, con una cosa che pesa come un libro, che non scalda, che non fa rumore, eccetera eccetera. Allora, hai sentito un po', Daniela, che cosa ci racconta Antonio Tombolini? Quello che abbiamo ascoltato era uno stralcio del suo intervento all'ultimo bar camp di Roma. Antonio Tombolini è un personaggio importante, marchigiano, è uno dei più acuti interpreti e utilizzatori di internet in Italia, grandissimo, notissimo e frequentatissimo blogger, fondatore di Esperie.com, forse l'abbiamo già in linea. Allora Antonio, quello che abbiamo sentito prima era uno stralcio del tuo intervento al Bar Camp di Roma. Ti abbiamo presentato come uno dei personaggi più importanti di internet in Italia, un blogger molto, molto noto, fondatore anche di Esperia.com, che era questo negozio, è questo negozio online per la vendita di prodotti enogastronomici di qualità. E sei tra l'altro anche uno dei principali esperti di editoria elettronica, diciamo così, di seconda generazione. Abbiamo sentito un brano in cui descrivevi le meraviglie di questi nuovi ebook, che sono dei libri elettronici che promettono di cambiare il nostro modo di fruire l'editoria. Però diciamo che quando arrivò la prima ondata di libri elettronici abbiamo già visto qual è la reazione un po' dell'establishment, dei tradizionalisti, cioè scattava una sorta di levata di scudi di tutti gli innamorati della carta, dell'inchiostro, i feticisti, diciamo, della carta stampata. Ora, se da una parte mi hai convinto con questa ulteriore innovazione, che è effettivamente straordinaria, dall'altra però dobbiamo anche prevedere questa fatua che arriverà da parte dei conservatori, che si ergeranno a crociati della poetica del libro rilegato, cadendo nel classico equivoco tra confusione della confusione tra il mezzo e il contenuto. Cosa pensi che potrà accadere dal punto di vista, diciamo, antropologico più che dal punto di vista tecnologico? Sì, credo da questo punto di vista è un fenomeno molto interessante, perché effettivamente mi ci sto scontrando un po' in diretta più mi occupo dell'avvio di questa avventura dell'editoria elettronica e più me ne rendo conto. Come spesso capita anche in altri ambiti, quello che si va delineando è una sorta di alleanza tra nobilissimi fini dichiarati, come quelli di chi appunto dice vuoi mettere un libro che lo prendi, lo tocchi, lo annusi, lo guardi, lo senti, eccetera, eccetera, e quindi un'alleanza tra chi dichiara in pubblico questi nobilissimi fini e poi invece in realtà la protezione di bassi interessi di bottega, cioè gli interessi, certo, di chi nel mondo dell'editoria tradizionale sta lucrando su posizioni di rendita assolutamente poco nobili e io spero anche assolutamente poco difendibili. Faccio un esempio per tutti, sì. Una delle prime aree e di quelle più interessanti a mio avviso per quello che riguarda l'editoria elettronica è quello della didattica, pensiamo alla scuola, pensiamo all'università, eccetera. Le resistenze della lobby composta da editori specializzati, più librerie scolastiche universitarie, più le copisterie, eccetera, eccetera, lì c'è una resistenza fortissima che naturalmente in pubblico non dichiara le motivazioni vere e magari invece alimenta queste posizioni di retroguardia, diciamo pseudo nostalgiche, amanti, come dicevi giustamente tu, un po' più che del libro, del feticcio libro. Sì, sì. Senti, ci spieghi che cos'è la Simplicissimus Book Farm? Sì, faccio prestissimo, oltre che Simplicissimus, è una casa editrice, che nasce in questo momento perché avendo seguito e visto e verificato di persona il fatto che, così almeno crediamo, la svolta dell'inchiostro elettronico, della carta elettronica, dei dispositivi che esistono già e che sono in fase di sviluppo basati sulla tecnologia dell'inchiostro elettronico consentono la possibilità di pubblicare libri elettronici con una qualità tipografica elevata e con una qualità ed esperienza di lettura assai elevata, ci sembra interessante cominciare a pensare a dei contenuti da poter leggere in questa forma. Allora, quindi è una casa editrice che sta sviluppando il suo piano editoriale per pubblicare diverse collane. Le renderemo note attorno a fine maggio con i vari curatori delle collane, i titoli, eccetera, per appunto pubblicare solo esclusivamente in formato elettronico dei libri di qualità tipografica. Volevo chiederti, secondo te a questo punto l'editore tradizionale se deve temere qualcosa dall'introduzione dell'ebook una volta che vi sarà un mercato importante? Cioè, se deve avere paura o se la deve vedere come un'opportunità? Come al solito è una sua decisione. Naturalmente la reazione prevalente in questo momento è tra la paura e lo sberleffo, direi così. Da un lato l'atteggiamento è quello di chi dice figuriamoci, queste cose non succederanno mai, eccetera, eccetera. Poi posto di fronte a qualche esempio concreto di libri immaginati e da leggere su questi dispositivi, in realtà l'esperienza è abbastanza impressionante, quindi lo sberleffo si trasforma un po' in un, se vuoi, in un piccolo brivido di paura. Atteggiamento sbagliato anche questo, nel senso che noi ad esempio abbiamo cercato, e se possibile cercheremo ancora, di trovare alleanze anche con editori tradizionali che hanno nei loro, diciamo così, magazzini un sacco di libri di cui detengono i diritti e che non vengono più pubblicati, e questo è un danno enorme che si fa alla cultura, alla circolazione della cultura. Noi ci siamo offerti di prendere anche a pagamento i diritti di queste opere che loro non pubblicano più, perché pubblicarli su carta sarebbe antieconomico, costi e così via, e per come reazione di paura a queste cose ci dicono di no, e quindi non c'è neanche la possibilità, pagandoli, di acquisire i diritti per pubblicarli elettronicamente e far circolare cose che stanno scomparendo. E la cosa interessante è che non è che stanno scomparendo solo cose sconosciute o per piccole nicchie, eccetera. Voglio dire, libri come, non so, Cristo si è fermato a Eboli cominciano a essere difficili da trovare, e l'editore che ne detiene i diritti probabilmente non lo ristamperà perché dubita che ci possa essere convenienza economica nel farlo. Per noi chiediamo che... i diritti per pubblicarlo elettronicamente, ci viene detto di no. Ho capito. Guarda, per quella che è quella mia esperienza drammatica di studente di letteratura inglese, il fatto che Joyce, Finnegan's Wake, Ulysses non si trovino più, sì, da un lato mi dispiace, ma mi provoca anche un brivido di piacere. Comunque, scherzi a parte, non c'è il rischio che questa innovazione finisca per influenzare la natura dei contenuti stessi? Cambia la fruibilità, cambiano i contenuti. Ma questo può darsi, per quanto il mio approccio, il nostro approccio con la Simplicissimus è più l'idea di dare un futuro al libro in qualche modo così come lo conosciamo, e cioè la grande potenzialità perlomeno dei lettori di ebook basati su questa tecnologia è quella di offrire una esperienza di lettura tra virgolette normale, assai vicina a quella della carta stampata di qualità, e quindi di dare un futuro proprio nel senso di quello che stavamo dicendo adesso a pubblicazioni, libri o anche inediti e nuovi autori e quant'altro, che nella struttura di costi di pubblicazione via stampa, di distribuzione soprattutto via stampa eccetera, non vedrebbero mai la luce. Poi in realtà il problema dei contenuti o della scrittura che cambia eccetera, io credo che sia più un portato della rete che non di questa tecnologia specifica, di questi dispositivi. Ecco, senti, qualche giorno fa, se non sbaglio, Telecom Italia, in una esibizione, uno di questi grandi convegni, ha presentato dei telefonini con uno schermo srotolabile, che sono dei lontani parenti forse degli ebook di nuova generazione. Comunque sono stati presentati come un passo in questa stessa direzione. Come li hai visti? Come ti sembra che si inseriscano? Sì, l'ho visto, e non sono lontani parenti, ma sono sostanzialmente la stessa cosa. Il brevetto che è alle spalle di tutti questi lettori, quelli già sviluppati da Philips e da Sony da un lato, quelli che stanno sviluppando, uno suo ne sta sviluppando Amazon per poi veicolare i suoi ebook, e anche questo che Tim ha annunciato e ha fatto vedere in Spagna recentemente insieme a una società olandese, per il versante tecnologico, questo librofonino come l'hanno chiamato, sono tutti basati sulla stessa tecnologia, e per cui la cosa è estremamente interessante. In effetti anche il fatto che un'azienda come Telecom, che insomma, come sappiamo, non è che di solito si configuri come realtà aperta al rischio, all'innovazione o a quant'altro, ma è uno dei colossi delle telecomunicazioni, anche piuttosto statico, decida di investire su questa cosa, probabilmente è un segnale significativo. Ecco, il discorso degli ebook è soltanto una scusa in realtà per parlare con te di un tema più ampio, che è un tema che c'è molto caro qui a Proxibar, che è il tema della resistenza al cambiamento rispetto alle innovazioni tecnologiche. Forse Daniela vuole farti un'altra domanda. Antonio, vediamo se riesce a parlarti. Senti? Antonio, mi senti? La senti? No, purtroppo no. Niente. Niente da fare, va bene, allora vado avanti. La domanda che volevo farti forse è la stessa. In passato sei stato protagonista dell'esperienza di Esperia, che era un grande, diciamo, portale online per l'acquisto di prodotti enogastronomici di qualità, e questo è molto bello perché il tuo nome è associato sempre a delle cose buone da mangiare e da bere, come ricordo personalmente anche all'ultimo Bar Camp di Roma, dove ci hai praticamente annichilito con delle cose molto molto buone. Comunque Esperia in realtà ha avuto sì un grande successo di pubblico, però si è avvertita molto chiaramente questa distanza rispetto alla freddezza di un mezzo di distribuzione di cose che invece appartengono agli aspetti più caldi della nostra vita. Sembra che vi sia una resistenza naturale. Qualche Natale fa, per esempio, io, dopo aver perso parecchio tempo e anche parecchi anni di vita nel tentare di fare regali nei giorni in cui le strade erano piene di traffico e c'erano queste commesse isteriche vanigliate che ti aggredivano, insomma, dopo 2 o 3 anni di stress decisi: ok, quest'anno anche io con Esperia faccio tutti i regali ai miei parenti, che sono tutti toscani, quindi con un'unica spedizione avrei risolto tutto. Però mentre stavo per premere il tasto return per l'acquisto, mia moglie mi bloccò dicendo: sì, va bene, ma non è la stessa cosa se i tuoi parenti ricevono questi regali in questa forma così fredda. E alla fine optammo per una soluzione old economy. Quanto sono stato vecchio? Quanto il mio comportamento diventerà sempre più una rarità? Cambierò? Voglio che me lo dica tu. Sì, te lo dico volentieri. Guarda, secondo me no, è cambiata la realtà totalmente, nel senso che è cambiata sia la rete da un lato, usando questi odiosi termini ma significativi, è cambiata sia la realtà online che quella offline, e secondo me nella direzione non tanto della cosa di cui parlano i marchettari, di quella banale convergenza dei canali di vendita eccetera eccetera, a quanto invece in una progressiva, e dal mio punto di vista l'espressione web 2.0, se ha un significato, è questo: da una progressiva, diciamo, contaminazione della realtà del mondo offline con le logiche delle esperienze, delle relazioni, delle conversazioni che ci sono online. E quindi comincio a vedere per esempio anche nel commercio, nella vendita, nelle attività economiche, realtà che cominciano a muoversi anche offline con la logica del mercato come conversazione, del prodotto che non è innanzitutto, per rimanere alle cose che mi pare di capire amiamo tutti e due, non è innanzitutto una bottiglia di vino o un pezzo di formaggio, ma è un luogo, se vuoi, anche un pretesto di una relazione umana, di una conversazione. Certo. Ecco, questo che in rete è in qualche modo obbligatorio se vuoi funzionare, comincia a passare un po' anche all'esterno e magari anche in qualche enoteca, insomma, mi succede che questo accada. E questo mi sembra un aspetto molto bello, insomma, questa possibilità di integrare le esperienze. Va bene, vorrei solo rendere giustizia a chi sta nutrendo i bar camp in giro per l'Italia. Io me ne faccio ambasciatore, insomma, nel senso che poi mi occupo del sito, eccetera. L'azienda è la San Lorenzo di Imperia, quindi le cose buone che stanno circolando in giro per l'Italia, i bar camp, vengono di lì. Allora, mi fanno cenno che mettiamo un po' di musica adesso, questa potrebbe essere una pausa, anche perché stava diventando una chiacchierata interessante, ma un po' troppo lunga, e forse dopo Daniela dovrà farti qualche domanda conclusiva. Benissimo. Ok, Antonio, eccomi qui. Mi senti? Ciao, finalmente. Finalmente ci sentiamo. Niente, purtroppo oggi abbiamo dei problemi qui in... con le dirette, sono costretta a stare in regia anch'io e ho dovuto rubare il microfono al buon Antonio. Meglio così, meglio così. Senti, non so se siano riuscita ad arrivare la mia domanda di prima sull'editoria e su quanto tu come editore rischi di vederti rubato una parte del tuo lavoro con l'ebook, ma penso te l'abbiano già fatta. La mia domanda è questa: ad agosto dell'anno scorso tu stavi sotto l'ombrellone col tuo bel ebook. È vero, lo so. Non ti mancava l'odore delle pagine del libro? Cioè, io sono una che compra online da una decina d'anni, però i libri è un piacere continuare ad andare in libreria a sceglierseli. Ma guarda, io credo che le cose tendenzialmente resteranno le migliori, cioè la carta che resterà probabilmente grazie all'avvento degli ebook sarà la carta di maggiore qualità, con la maggiore qualità di stampa, tutte quelle cose che la carta è solo la carta, la stampa è solo la stampa su carta, può valorizzare al massimo. Quelle che scompariranno saranno soprattutto le più inutili da stampare, le più inquinanti, quelle che vengono realizzate sulla carta più appunto inquinante, becera, eccetera, e così via. Quindi diciamo che io non voglio demonizzare l'approccio feticistico al libro, perché tutti i lettori un po' ce l'hanno, no? Però lo vorrei distinguere dalla fruizione del libro. Su questo Doctorow, in una conferenza proprio sugli ebook, fa un esempio illuminante, cioè con l'avvento della stampa di Gutenberg su carta naturalmente c'era un passaggio dai manoscritti fatti dagli amanuensi nei monasteri, eccetera eccetera. Ovviamente un manoscritto con le miniature, cioè, è incomparabilmente più bello di un libro a stampa. Ciò nonostante, un libro a stampa apre una circolazione delle idee, della cultura, dei contenuti incomparabilmente maggiore rispetto a qualsiasi manoscritto. Allora, conserviamo i manoscritti, conserviamo la qualità estetica, eccetera, per le cose migliori, ma non chiudiamo la porta invece alle possibilità che l'ebook apre, che l'editoria elettronica apre per la circolazione della cultura. Certo. Senti, non so, penso che Antonio voglia farti un'ultima domanda, un saluto. Io per il momento ti ringrazio moltissimo. Grazie e a te. Spero di riaverti qui in condizioni un po' più tranquille, in modo da approfondire questi argomenti, perché sono veramente molto interessanti. Un'ultima cosa, adesso rubo il microfono ad Antonio per un'ultima curiosità. Io, sì, quando devo studiare su internet o un testo tecnico, preferisco stamparlo. Secondo te l'ebook ha le stesse difficoltà della lettura a monitor? Eh no, è proprio questo il passaggio chiave. E fino ad oggi, senza questi dispositivi, è sostanzialmente, diciamo, se non impossibile, difficilissimo e assai faticoso leggere a monitor, retroilluminato con cristalli liquidi, eccetera. Qui sarai davanti a uno schermo spento, bianco, con stampa nera, esattamente come a un foglio di carta. Ok. Quindi non retroilluminato e quant'altro. Perfetto, allora ti passo, Antonio, per un saluto. Grazie per questa illuminazione. Domani vado a comprarmi il mio primo ebook. A presto, grazie. Benissimo, grazie. Ciao. Ciao. Allora, se hai convinto Daniela, questo è già un grossissimo risultato, perché lei è notoriamente tosta. Senti, invece a me mi avevi già convinto da prima, anche perché io questi ebook, questo Iliad e i suoi parenti, diciamo, li avevo già visti in qualche misura, ma il mio problema è un altro, è di natura direi sociologica. Allora, mentre Daniela sulla spiaggia è preoccupata perché non sente l'odore delle pagine, io sulla spiaggia, io vado sempre sulla spiaggia perché sono versiliese, ho il mio ombrellone alle focette da anni, il bagno Patrizia, tutti mi conoscono. Invece che estrarre un libro dallo zaino, estraggo un Iliad, estraggo un ebook, diciamo, e va benissimo perché io leggo il romanzo, la mia esperienza è splendida, però tutto lo stabilimento mi guarda e qualcuno dice: ma quello lì è un soggettone, come si dice a Roma. Questa è un'altra fase che deve essere superata, cioè quella dell'accettazione sociale di un oggetto che è ancora un oggetto per tech geek, diciamo la verità. Beh sì, in qualche misura credo che questo sia abbastanza inevitabile. Io sono abbastanza vecchio, molto più di voi, da ricordare il periodo in cui non esistevano i cellulari e poi sono cominciati ad esistere. e per cavarmi di impaccio facevo anche delle scene e metterci un po' a ridere. Ricordo una volta con un amico mi misi un telefono di quelli fissi staccato sul cruscotto della macchina e facevo finta di telefonare con questo e sembrava verosimile tutto sommato rispetto ai primi cellulari che andavano in giro. Siamo in una fase ovviamente in cui trovarsi il 16 di agosto al mare, come capitava a me l'anno scorso, con un lettore di libri elettronici può attirare curiosità intellettuali, eccetera, ma anche qualche lazzo. Però, insomma, può valer la pena. Beh, se va come è andata con i telefonini, ci sarà una fase, diciamo, di esaltazione, di esibizione dell'oggetto e poi diventerà una cosa comune, come penso francamente che accadrà. Noi ti ringraziamo tantissimo per la tua collaborazione, ci scusiamo per gli inconvenienti tecnici, ma alla fine le cose ce le siamo dette, con la consueta franchezza che ci contraddistingue. E ci hai convinto, devo dire la verità, e ti invitiamo magari per parlare di queste cose tra un po' di tempo per vedere che cosa è successo nel frattempo. Sarà un piacere. Ok, grazie Antonio. Grazie a voi, a presto. Ti è piaciuta la chiacchierata con Tombolini? Bellissima, Tombolini è un grande in effetti, è stato veramente piacevole, purtroppo questi problemi tecnici che ancora ci assillano ci affliggono. Non importa, senti, per quanto riguarda le chicche, io so che sei stata molto impegnata, però ci ho pensato io. Sei speciale, veramente. Raccontaci qualcosa per favore, perché veramente ho avuto una settimana molto pesa. Ecco, allora devi sapere che io vado in giro molto spesso in treno, in auto, lo sanno diciamo un po' di persone che sono schiavo della strada, schiavo dei treni. E molto spesso mi capita di leggere i blog sul telefonino. Ho uno smartphone non particolarmente voluto, ma che mi consente di vedere i blog. Adesso però ho trovato una cosa che è un aggregatore RSS. Vabbè, ce ne sono tanti anche ormai per i telefoni cellulari, va benissimo, no? Per vedere diciamo i blog a cui tu sei abbonato, vedere quando ci sono nuovi articoli, arriva l'informazione che vuoi esattamente nel momento che vuoi, un po' come con i podcast. Però nel momento in cui loro pubblicano, sì, nel momento in cui tu vuoi. Beh, sì, però tu verifichi se hanno pubblicato nel momento in cui vuoi tu, diciamo c'è un controllo totale del contenuto. Sì. E la cosa carina di questi aggregatori è che adesso esistono anche per i cellulari. Ma la cosa bellissima di questo aggregatore che ho trovato è che non è un client da installare sul cellulare, non è un software, è tutto su un sito. Cioè c'è un sito per i telefonini che si imposta come la classica applicazione, diciamo 2.0, per fungere da aggregatore e funziona benissimo. Quindi tu ti registri, sì. Dici quali sono i siti di riferimento, quindi sì. Metti le URL dei tuoi RSS. Sì, non solo blog, ci sono ormai anche servizi di notizie, cioè Yahoo, La Repubblica, vari tutti giornali. Tutti gli RSS che vuoi. E lui automaticamente... Cioè, tu però ogni volta ti devi collegare a questo sito. Sì, ti colleghi, ma l'uso della banda è veramente minimo, proprio perché essendo impostato per i cellulari, lui ti manda esclusivamente il testo e volendolo puoi impostare anche le immagini, gli oggetti, i video di YouTube, a seconda chiaramente delle funzionalità del tuo telefonino. Il mio è un po' povero, ma in questo modo ho esattamente quello che voglio. L'informazione. Allora, l'indirizzo io lo dico, ma sportivamente vi invito a guardarlo sul blog di Proxy Bar, perché non è facile fare lo spelling alla radio. Comunque si chiama newsalloy.com, c'è la versione sia mobile sia la versione per usarlo tranquillamente con il computer. E questa è una cosa che mi è piaciuta e mi ha cambiato la vita, come dice lo slogan della nostra trasmissione. E poi vabbè, avrei un altro paio di chicche sulla mobilità, ma queste io le vorrei tenere per la settimana prossima, perché le voglio testare un po' meglio. Quindi io direi di passare la parola al nostro guru di turno. Al nostro guru di turno, sì, che è l'ospite che è mancato la settimana scorsa. Non anticipare troppe cose, adesso facciamo una piccola pausa, poi la mandiamo in onda. Ok. Burno, il guru di questa settimana è Antonio Sofi, il professor Sofi, che non è potuto intervenire in trasmissione, ma che a suo tempo, cioè un paio di mesi fa, avevo intervistato al Barcamp di Roma. Professor Sofi, bisogna dire chi è ed è un po' lungo, è diciamo docente di fonti e processi produttivi nel giornalismo e di sociologia delle professioni dei nuovi media alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Firenze. Quando inventeranno dei corsi di laurea con dei nomi più brevi saremo tutti molto non più felici. Non dimentichiamo che nella qualifica va aggiunto blogger. Sì, è un grande blogger, è famoso soprattutto per questo bel blog che è anche un podcast che si chiama webgoal.it. Con Sofia abbiamo parlato di questo nuovo oggetto del desiderio che arriverà da noi a fine anno, ma negli Stati Uniti già quest'estate, che si chiama iPhone. E che dire, è qualcosa che tutti vogliamo e che meno è disponibile e più lo vogliamo. Siamo in una fase, diciamo così, quasi sensuale rispetto a questo mancano oggetto. Mancano 7-8 mesi per averlo, su sì, un ma io po' sono, di pazienza. Sono già in fibrillazione. Va bene, mandiamo il bumper. Guru Meditation. Guru Meditation. Guru Meditation. Allora, Barcamp di Roma, siamo in compagnia di Antonio Sofi, che vabbè, adesso potrei anche mettermi qua a elencare tutti i suoi titoli, insegna questo, fa quest'altro, eccetera. Non lo faccio, mi sono imposto di non farlo, sennò poi è diventata una cosa troppo lunga. Diciamo solo che è l'autore dello splendido blog www.webgoal.it, che raccoglie una serie di monografie, anche di podcast, insomma, andatelo a vedere perché è molto molto interessante. Allora, sono le 7:20, la musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata. No, si è svolto questo bellissimo evento che si chiama Barcamp, tu lo hai con il tuo sguardo tipicamente obliquo e anche scettico ed entusiasta al tempo stesso, lo hai fotografato e adesso prova a sviluppare la fotografia. Sì, in effetti guardare il Barcamp con uno sguardo obliquo, scettico, cosa avevi detto? Non lo so, io stavo delirando come al solito, poi le dimentico le cose. Però quei deliri erano interessanti, e forse una chiave di lettura interessante il delirio, perché alla fine stiamo parlando di un evento, adesso questo è il terzo che frequento, quello di Milano e quello di Torino hanno preceduto quello di Roma, in realtà mi sono reso conto che è un evento così eterogeneo che non puoi guardarlo direttamente come fai per un convegno tradizionale, in cui ti metti lì seduto e lo guardi ed è tutto abbastanza lineare. Questo parlando di un convegno che si svolge contemporaneamente in più luoghi, allora uno sguardo obliquo è forse il modo migliore per guardarlo, ed è proprio in questa ricchezza di possibilità e di scelta che è la bellezza del Barcamp. Per chi di noi è abituato purtroppo nolente o volente a seguire le conferenze tradizionali, è come una salto al buffet. l'assalto buffet, per esempio, potersi alzare durante una conferenza, uno speech, senza avere, diciamo, quella sensazione di colpa, da riprovazione sociale che si hanno in altre conferenze, chiacchierare un attimo, andare a mangiarsi qualcosa, bere qualcosa e tornare, intervenire, questa fluidità, no? Che, se vogliamo, riproduce la fluidità del web, è secondo me l'elemento più divertente del barcamp, insomma. Senti, io se ti avessi intervistato alle 2 quando era ancora abbastanza fresco, ti avrei fatto delle domande di scenario ambiziose, eccetera. No, adesso sono distrutto e quindi ti parlo delle cose che mi piacciono, delle cose che mi prendono nei miei istinti più belluini, vale a dire, per esempio, il fatto che a giugno negli Stati Uniti, poi a dicembre verrà, troveremo nei negozi un oggetto molto bello che si chiama iPhone, e che in un clima assolutamente messianico, nel suo keynote, Steve Jobs ha presentato come 3 prodotti in uno, tra gridolini di soddisfazione del pubblico assolutamente in estasi, eccetera. Cioè, cose che, allora, intanto la prima cosa, da quasi da sociologo, ti chiedo: ma sarà mai possibile in Italia a vedere una convention di un'azienda che si può permettere di farla lo stesso giorno in cui tutte le altre aziende si trovano in un altro posto? Prima cosa interessante, no? E vanno lì tutti gli adepti e per tutto il tempo si comportano come se fossero, che so, tifosi della Roma quando arriva Totti. Ed è un'azienda che fa questo. Cioè, questa è la prima cosa che io ho notato in questo keynote. Adesso lasciamo perdere l'iPhone, poi ne riparliamo. Ma, cioè, in Italia succederà mai una cosa del genere? Cioè, tu ti immagini, che so, adesso non voglio fare nomi, sennò poi partono le querele. No, secondo me hai colto proprio un punto. La cosa interessante, come notavi tu, è che non stiamo parlando di prezzolati o di gente che va lì pagata come la clac a teatro. Stiamo parlando di gente che lo fa per sua spontanea volontà. Ed è interessante questo aspetto, nel senso che, se non sbaglio, Luca De Biase ragionava, ma anche per esempio l'autore di Presentation Zen, che riflette da un po' di tempo su come fare delle presentazioni efficaci rispetto al classico PowerPoint aziendale. Allora, il punto è proprio l'elemento narrativo del keynote di Steve Jobs, che è stato preparato da prima e sviluppato e seguito da un attento racconto dell'evento, per cui prima indiscrezioni, ma il massimo mistero dell'azienda, eppure dei rumors che circolavano e alimentavano questo hype, questa aspettativa nella parte delle persone, la gestione del keynote in modo quasi teatrale di Steve Jobs, che ha presentato un oggetto che in parte è già esistente sul mercato, non è poi così tanto innovativo, tranne alcune cose di cui magari parliamo dopo, però l'ha presentato come con delle vere strutture narrative, cioè con dei veri modi teatrali per farlo. E questo, dei paradossi anche, no? Se ogni tanto lanciava delle frecciate ai concorrenti, ma sempre con la giusta superiorità di chi poi tutto sommato non vuole fare troppo male, perché sarebbe come sparare sulla Croce Rossa. Sì, non ha bisogno, perché ha un pubblico di fan, quindi perché esagerare, perché stravincere, insomma, no? Non voleva stravincere, voleva raccontare una storia, e raccontando questa storia in modo teatrale e con l'eco del luogo molto appassionato, ovviamente questo eco poi si è riverberato nella rete. Adesso di questo oggetto, che io dopo un po' ci ho ragionato un attimo, dopo quei primi entusiasmi ho pensato: ma forse io questa cosa la comprerei anche se non facesse niente. perché è una cosa che tu non l'ho toccata, ma la tocchi, no? E subito c'è un rapporto quasi sessuale con la mano, eccetera. Adesso non mi far trascendere, però insomma, questo per dire che vabbè, intanto c'è questa che è la premessa per un prodotto di successo. Se ci pensi, anche l'iPod aveva queste caratteristiche, ma era, a mio personalissimo parere, inferiore rispetto a molti modelli di allora, c'erano solo i lettori MP3 audio sul mercato, compreso quello con cui sto registrando in questo momento il podcast, di cui non dico marca e modello, perché sennò appunto facciamo pubblicità. Comunque, insomma, allora, che cosa, a parte la bellezza, che sarà questo, no, a determinare il successo del prodotto, e poi chiuso l'argomento di che cosa farà sì che ne venderanno a milioni, parliamo delle caratteristiche che pure sono interessanti. Allora, la prima cosa che mi viene in mente è che è questa: con un normale telefono Wi-Fi, adesso ce ne sono, c'è il Nokia S60 per esempio, Nokia 6136, ci sono altri prodotti, ecco, tu adesso stai estraendo un clamoroso non so cosa, l'S61, esatto, con questo tu ti puoi sentire le web radio in streaming. La Nokia non ne parla granché di questa cosa quando promuove questo telefono, né le web radio sembrano rendersene conto. Cioè, se tu vai sul sito delle principali web radio, nessuno dice da oggi ci potete sentire in Wi-Fi anche in condizioni di immobilità. Beh, questo è una bella svolta per una web radio che normalmente si può, cioè ti imprigiona davanti al computer, tant'è che il tipico ascolto della web radio è il nulla facente in ufficio che invece che lavorare si sente la radio. Allora, intanto l'iPhone, a differenza del tuo S60 che ce l'hanno in pochi, l'iPhone ce l'avranno milioni di persone. Questo cambierà la vita delle web radio, giusto? Sì, innanzitutto riprenderei la cosa che hai detto all'inizio, cioè non stiamo parlando di tecnica per l'iPhone, non è una questione di tecnologia, anche se in realtà poi la tecnologia è funzionale all'estetica. In realtà la prima cosa che viene in mente guardando l'iPhone, anche solo da video e immagini, è che è una cosa che, come dire, è come il cane di Pavlov, come la lucina per il cane di Pavlov, fa salivare, cioè ti fa venire voglia di averla. Il riflesso pavoliniano o pavloviano è quello che mi è scattato. Cioè è un qualcosa, è una causa effetto, lo vedi e lo vuoi, e questo è ovviamente dato dalla qualità dell'estetica della Apple, che ha sempre giocato molto nei suoi prodotti. Però non è nemmeno una questione di tecnologia in realtà questa dell'iPhone, è una questione di tecnologia che è facilitante. Cioè per esempio uno degli elementi secondo me più innovativi dell'iPhone, che forse lo faranno diventare così popolare come l'iPod, è proprio il fatto che non ha tastiera, e questo è l'elemento più affascinante. Rivoluzionario, anche senza dover dire niente già vedi un oggetto rivoluzionario perché non ha la tastiera. Ma guarda, non solo, ma ci sono anche altri oggetti in commercio che hanno una tastiera ridotta e lavorano solo col touchscreen, però l'elemento comunicativo è non c'ha un tasto. Questo è facilmente comprensibile da tutti, e non solo, la tecnologia pare anche essere anche abbastanza evoluta, c'ha 200 brevetti dentro, puoi interagire con il multi-touch screen attraverso due dita contemporaneamente per allargare oppure zoomare le foto, cambiare, insomma puoi fare una serie di cose che magari si vedono solo nei film. Minority Report. Minority Report è un classico, ci sono vari esperimenti in questo tipo di interfacce diverse, però colpisce. E probabilmente rivoluzionare anche il modo nostro di interagire con le macchine. Sì, hai perfettamente ragione. Va anche detto una cosa, che l'iPhone non rinuncia ad essere, oltre a, come dice Steve Jobs in modo molto teatrale, a cell phone, poi dice poi dice a media player, eccetera. Poi è anche una cosa che si candida, per esempio, con un browser come Safari, praticamente nella versione completa, si candida a diventare il luogo dove la gente si collega ad internet. Cioè, si candida a sostituire il computer, e questo non fa molto scopa con il fatto che, per esempio, l'altro prodotto che hanno presentato, la Apple TV, invece, che poteva eliminare il computer, no, dal gioco, invece l'Apple TV ancora si basa su un computer. Quindi tu, per vedere sul tuo televisore di casa i video che aggreghi con il computer, hai bisogno di tre oggetti, di tre pezzi di hardware a casa. Non sono un po' troppi. Lo schermo al plasma, la TV, lui dice schermo al plasma, lo dà per scontato, la TV, il set-top box, cioè l'Apple TV, e il computer. E questa mi sembra invece una scelta pesante, una scelta che va contro, no, la tradizione di Apple. Sì, in un certo senso è stato molto criticato, ma anche per una serie di chiusure, per esempio non si possono visualizzare, pare, i DVX. e quindi questo taglia un po' le gambe a tutta una serie di fruizione per quanto riguarda l'Apple TV. E in realtà che è successo? Che l'iPhone ha di fatto cannibalizzato l'Apple TV. Questo è un po' l'effetto negativo. Non poteva aspettare un altro momento per presentare l'Apple TV? Non lo so, questo è difficile dire. La mia impressione è che la percezione è che l'Apple TV non fosse un prodotto così potente come l'iPhone, e questa cannibalizzazione in un certo senso gli ha fatto gioco, perché comunque è uscito fuori un grande keynote con questa grande novità. E il punto, sai, dell'iPhone, il vero punto è la portabilità, cioè la convergenza di varie cose, la portabilità del cellulare. Era curioso appunto Steve Jobs, diceva sì, ma alla fine puoi fare anche le telefonate, perché alla fine l'elemento di convergenza di varie cose, soprattutto quella della connettività via wifi e di un browser praticamente completo, è un punto di forza significativo. Io, che diciamo ho un po' il polso della comunità dei podcaster italiani, ho notato un certo fastidio verso il fatto che a bordo dell'iPhone non c'è un aggregatore. È quella che è l'unica, diciamo, funzionalità che adesso manca ai lettori MP3 che l'iPhone comodamente avrebbe potuto avere, cioè il fatto di aggregare feed RSS, podcast, eccetera, non ce l'ha. Sì, è vero che con un applet Java, con qualsiasi, lo puoi anche mettere su web direttamente, questo non ci preoccupa, però, come dire, sarebbe stato così semplice mettere un tasto, dice abbonati a questo, e il momento della sincronizzazione lo fai finalmente anche lontano da casa. Sì, ho seguito un po' questa cosa. Mi sembra di aver capito che, come tra l'altro le altre versioni di Safari, Safari integra un aggregatore di feed RSS, quindi attraverso Safari si potrà comunque seguire i flussi di feed RSS. Certo, non avendo un aggregatore completo, probabilmente questo darà alcuni problemi, soprattutto per... Ma io mi aspettavo iTunes. Certo. Il punto è che loro vogliono farlo comunicare con iTunes in maniera molto, molto forte, molto veloce. Quindi, in un certo senso, non vogliono cannibalizzare, diciamo di nuovo, per usare questo termine, i computer. Sì, no, la verità, io traduco quello che tu dici in modo molto diplomatico: vogliono continuare a vendere personal computer. Beh, insomma, è il loro core business. Però la cosa curiosa per quanto riguarda, diciamo, l'utilizzo alternativo, perché sono già nate, diciamo, possibilità, dopo il primo momento di esaltazione, hanno cominciato a ragionare varie comunità di pratiche su internet come poter utilizzare questo oggetto. Considerato, e tutti sperano in un certo senso nel fatto che sia così popolare come l'iPod, che porterà un boost fortissimo, un'accelerazione fortissima, tutta una serie di cose. E in realtà ho visto un po' di scetticismo dei podcaster, anche se per esempio in altri piccoli micro ambiti, per esempio quelli dei podcast didattici, quindi gli edublogs, gli edublogger, hanno subito visto questo come un'opportunità, se si diffondesse così come l'iPod, per portare avanti proprio una logica di m-learning, per esempio, di mobile learning, attraverso un futuro in cui l'iPhone sarà così diffuso tra i ragazzi, tu puoi permettere loro di fare dei podcast con registratore, di condividerli, metti su iTunes, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, io non ho visto una grande presa line-in nell'iPhone, ma non importa, magari ci sarà il microfono integrato che permette di realizzare dei contenuti che non daranno fastidio a nessuno perché non sono registrati molto bene, ma queste sono... Tu sei esagerato, però sì, sono d'accordo con te. Va bene, grazie Antonio. Radio Imago. Sei su Radio Imago. Radio Imago. Entra nel sogno, ascolta l'immagine. Che voleva avere, vedi perché voleva avere il professor Sofi in trasmissione giovedì scorso? Che personaggio, eh? Hai intervistato delle persone veramente interessanti. Erano tutti lì, il vantaggio che c'è quel giorno in cui sono tutti lì, ma adesso insomma di Barcamp ce n'è uno ogni due settimane in giro per l'Italia. Adesso pare dopodomani ce n'è uno a Casalecchio, a Bologna, no? C'è il Citizen Camp. Allora, sono le 8 precise in questo momento, come al solito sforiamo, è il momento dei saluti, puntata anche questa faticosa dal punto di vista tecnico, ma come al solito, poi alla fine... Ricca di spunti. Sì. Ti ringrazio per la pazienza, Daniela, per il tuo via vai continuo tra la regia e lo studio. No, sto scherzando, prima o poi vinceremo noi, prima o poi. Va bene, grazie a tutti per l'ascolto, buonasera, giovedì prossimo. A giovedì, a presto. Thank you. Radio Imago ha presentato Proxy Bar di Antonio Pavolini e Daniela Apollonio. Radio Imago.